Componimento venticinquesimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Amor piangeva ed io con lui talvolta, dal qual miei passi non fur mai lontani. Mirando per gli effetti acerbi e strani l'anima vostra de suoi nodi sciolta. Or ch'al dritto camin la Dio rivolta, col cor levando al cielo ambe le mani, ringrazio lui che i giusti preghi umani benignamente sua mercede ascolta. E se tornando all'amorosa vita, per farvi al bel desio volger le spalle, trovaste per la via fossati o poggi, fu per mostrar quanto è spinoso calle e quanto alpestra e dura la salita, onde al vero valor conven ch'uom poggi. Fine del componimento.